giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Costi energetici insostenibili, c'è il rischio di chiusure anticipate delle strutture turistiche. È l'allarme di Federalberghi che chiede interventi alla politica, conseguenze sull'occupazione. E intanto la cassa integrazione a luglio è aumentata significativamente. Si definiscono le candidature in vista delle elezioni del 25 settembre, molte quelle dei parlamentari uscenti. La Lega candida Vagna Gava a Pordenone e Massimiliano Panizzutta a Trieste. Ciriani di Fratelli d'Italia all'uninominale del Senato. Nel Movimento 5 Stelle corrono Sutto e Patuanelli, Cimolino e Pellegrino in campo per Europa Verde, Sinistra Italiana. Si annuncia un sabato da bollino nero sulla rete autostradale regionale, previsto l'incrocio tra esodo e controesodo dei vacanzieri e anche domani ci sarà traffico intenso. Crisi Varzila, si alza la tensione, Fim, Fiom e Wilm denunciano l'azienda per comportamento antisindacale, se l'istanza venisse accolta potrebbe rimettere in discussione il piano di tagli occupazionali. Non è un caso isolato di razzismo, ma io non me ne andrò, parla il medico di origine camerunense insultato da un paziente al pronto soccorso di Lignano, la solidarietà dei colleghi di lavoro. E intanto nei pronto soccorso della regione non si trova personale medico disponibile ad affrontare turni sempre più complessi, il riconoscimento economico per gli straordinari non è bastato a fermare la grande fuga. Gli imprenditori che hanno investito nel fotovoltaico sono tenuti a rimborsare lo Stato se hanno realizzato profitti superiori a quanto previsto dal decreto sostegni. Uno sgambetto e una nuova spada di Damocle sulle aziende, protestano agricoltori e allevatori. Elisa Cosetti, bronzo agli europei di nuoto, la tuffatrice triestina ha conquistato uno storico podio azzurro nei tuffi dalle grandi altezze. Oggi in campo maschile tocca all'altro atleta della triestina nuoto, Andrea Barnaba. L'Udinese si presenta al Friuli alle 18.30 all'esordio casalingo in campionato contro la Salernitana. Mister Sottil, fiducioso, abbiamo voglia di una grande prestazione, dice. Le 7.20 di sabato 20 agosto, buongiorno da Livia Liberatore e Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In apertura un'occhiata al tempo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 20,5 gradi, mare calmo con temperatura di 25 gradi, a Gorizia 18,5 gradi, Pordenone e Udine 17,5, a Tolmezzo 17,5 gradi, Forni di Sopra 15,5, Piancavallo 12 gradi, Sappada 11,5, Tarvisio 10,5, Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussari 11, tornando sulla costa Lignano 22,5, a Grado 22, temperatura del mare di 24 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, non si escludono nel pomeriggio locali rovesci sulle prealpi, alta pianura e sul Carso, soffierà vento moderato da nord in quota, temperature massime in aumento. Ora le notizie. La stagione turistica quest'estate in netta ripresa potrebbe essere pesantemente condizionata dai costi delle bollette, saliti in maniera esponenziale. Gli hotel potrebbero chiudere anzitempo, avvisa Federalberghi, con conseguenze sull'occupazione e a luglio intanto la cassa integrazione è già aumentata. Le bollette dell'elettricità triplicate rispetto all'anno scorso rischiano di troncare una stagione turistica che dava buoni segnali di ripresa, anche se last minute e soprattutto la mini vacanza mordi e fuggi a causa del caro gasolio pare appartengono ai tempi passati. I rincari delle bollette portano alle stelle anche il costo dei servizi, tra i più onerosi per gli alberghi quelli della lavanderia. In 3 mesi il costo è triplicato e in fattura ci aggiungono anche il 10% per il costo del gas, ci dice un albergatore. A queste condizioni, sostiene Confcommercio Federalberghi Udine, diventa insostenibile tenere aperta una struttura mezza piena, come avveniva ancora l'anno scorso per tutto ottobre nelle località di mare, nell'ottica della destagionalizzazione, oppure in montagna fino a settembre inoltrato. La stagione invernale, attanagliata anche dal riscaldamento, rischia di accorciarsi ulteriormente per gli alberghi. Necessario quindi calmierare i prezzi quanto prima, dice dice la presidente di Federalberghi Udine Paola Schneider, convinta che i bonus vacanza abbiano fatto il proprio dovere dopo la pandemia, riattivando il turismo locale, ma ora, dice, bisognerà trovare nuovi strumenti. Prospetta un autunno difficile per l'economia, in particolare per il manifatturiero, la CGIL, commentando il 1.200.000 ore di cassa integrazione di luglio. La guerra in Ucraina ha pesantemente aggravato le criticità con cui era iniziato il 2022, sostiene il segretario della CGIL Pezzetta, che teme il mercato non possa più reggere all'aumento dei costi di energie e materie prime, e molte imprese energivore potrebbero trovarsi nelle condizioni di decidere sanguinosi stop produttivi. A frenare l'economia anche l'impasse del 110%, che finora ha rappresentato un importante volano, aggiunge Pezzetta. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caro bollette, come abbiamo sentito, ma anche la mancanza di personale sono i problemi principali degli albergatori in una stagione che nel complesso è stata molto positiva per il turismo. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente di Federalberghi Udine, Enrico Guerin. La stagione 2022 sta proseguendo su numeri interessanti che confermano un po' quelle che erano le previsioni per quest'annata. Abbiamo avuto una buona affluenza di turisti stranieri e anche di italiani che si sono riversati nella nostra località e hanno riempito le strutture alberghiere. Chiaramente riscontriamo il problema annoso ormai del reperimento delle risorse umane, che per quanto riguarda le risorse stagionali è sempre più persistente. E inoltre stiamo ricevendo una bella sorpresa che in realtà era aspettata, quella del forte aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, che chiaramente va a interferire quelli che sono i risultati delle nostre aziende, ma soprattutto influisce molto anche in quelli che sono i prezzi del reperimento delle materie prime e dei servizi che dobbiamo sostenere per accogliere al meglio i nostri turisti. Quali sono, secondo lei, gli interventi contro il caro bollette? Ma io credo che vada messo al più presto un tetto su quelle che sono le tariffe che possono esserci dedicate agli operatori commerciali e agli operatori economici, e inoltre dovranno essere sicuramente previste delle detrazioni di imposta sulla differenza di prezzo che pagavamo negli anni passati rispetto a quello che paghiamo quest'anno. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che le tariffe che noi abbiamo applicato al pubblico erano tariffe con prezzi stabiliti ben prima dell'inizio della stagione, quindi non abbiamo certo potuto alzare i listini come invece hanno potuto fare altre aziende dalle quali noi compriamo beni e servizi. La politica continua il confronto nel centrodestra per mettere a punto le candidature per le elezioni del 25 settembre. Le prime conferme ufficiali nella Lega per due parlamentari uscenti, Vania Gava della Lega schierata per la Camera nel collegio uninominale di Pordenone come capolista nel proporzionale, e Massimiliano Panizzut che correrà nel collegio di Trieste Gorizia. Al senatore uscente Luca Cidiani di Fratelli d'Italia invece destinata sia la candidatura al collegio unico uninominale del Senato sia il primo posto nel listino del proporzionale. Al secondo posto, sempre per il listino per il Senato, viene data per certa la goriziana Francesca Tubetti. Alla Camera, invece, il coordinatore regionale e deputato uscente di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, è destinato al collegio uninominale di Udine per la Camera, mentre nella quota proporzionale viene indicata l'assessora comunale triestina Nicole Matteoni, con il vice sindaco di Pordenone Emanuele Loperfido in seconda posizione. Da definire nel dettaglio le candidature di Forza Italia nel proporzionale, con in pole position gli uscenti Sandra Savino e Roberto Novelli. Nel Movimento 5 Stelle ad aprire la lista proporzionale per la Camera ci sarà l'uscente Luca Sutt, mentre il capolista al Senato è Stefano Patuanelli, ministro nei governi Conte 2 e Draghi, in corsa anche in Lazio e in Campania. Nel polo centrista Azione Italia Viva si definisce un'altra posizione per un uscente, il renziano triestino Ettore Rosato aprirà la lista dei candidati alla Camera e correrà anche in Campania. Alle sue spalle la referente regionale del Movimento di Calenda ed ex europarlamentare Isabella De Monte. Al Senato è definita la candidatura del sindaco di Povoletto, Giuliano Castenitto. Sempre per Italia Viva Azione alla Camera correranno Teresa Tassanviol, già al vertice regionale dell'Associazione Nazionale Presidi nel Collegio di Pordenone, a Udine l'ex assessora alla Salute Maria Sandra Telesca, mentre a Trieste verrà schierata la segretaria provinciale di Azione Daniela Rossetti. Ufficiali anche le liste di Europa Verde e Sinistra Italiana in coalizione con PD, Più Europa e Impegno Civico. A guidare la corsa al Senato la medica triestina Tiziana Cimolino, alla Camera capolista l'ex parlamentare friulana Serena Pellegrino. Ora il weekend sulle strade, in A4 si annuncia una giornata da bollino nero, già ieri le prime code del fine settimana con rallentamenti in uscita dalla barriera dell'Isert in direzione Croazia, code anche nel senso opposto, segno dell'incrociarsi di esodo e controesodo dei vacanzieri. Altri rallentamenti si sono registrati all'ingresso in autostrada di Latisana, traffico intenso in A23 all'uscita della barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Dopo un sabato complicato, traffico sostenuto è previsto anche per domani. Ne abbiamo parlato con il direttore d'esercizio di Autovie Venete, Davide Sartelli. Ci sarà un controesodo che si unisce anche con l'esodo. Pertanto ci sarà traffico in direzione Venezia soprattutto. Si formeranno poi nella giornata oggi, durante la tarda mattinata, delle code all'entrata di l'Isert e dureranno fino al tardo pomeriggio in serata. Questo si potrebbe verificare anche verso il nodo di Palmanova, sempre direzione Venezia, e anche del traffico in A23, sempre a nord di Palmanova, provenendo da Tarvisio. Poi dopo iniziano le tre corsie, quindi il traffico dovrebbe sfogarsi, però poi dopo, dove ci sono le due corsie, si verificheranno anche qui, soprattutto verso il pomeriggio, dei rallentamenti, sempre soprattutto in direzione Venezia. C'è qualche consiglio per evitare il grande affollamento? Un consiglio può essere quello, sicuramente quando si arriva all'altezza di Porto Gruaro, qualora si vedessero delle code, l'alternativa di prendere la 28 verso Conegliano e la 27 per rientrare sul passante di Mestre e bypassare le code che si potrebbero verificare. Inoltre ci metto anche quello dell'informazione, quindi informarsi sul viaggio. Noi abbiamo dei metodi, c'è il www.infoviaggiando, il nostro sito, l'app Infoviaggiando, ci si può collegare in diretta, e il numero verde 800 99 60 99. Ci si può informare in diretta, stare molto attenti al nostro pannello a messaggio variabili. E inoltre un consiglio non meno importante è quello sulla sicurezza, pertanto mantenere in questi casi la distanza di sicurezza. Ci raccomandiamo non utilizzare smartphone alla guida. È tornata alla normalità la situazione a Resia, la località già colpita duramente dagli incendi, che ieri pomeriggio si è trovata di nuovo isolata per circa 3 ore a causa delle forti piogge che hanno reso impraticabile in più punti il bypass sul torrente, istituito proprio per rendere possibile il transito da e verso Resia. Dall'1 della notte passata è possibile transitare in autonomia sul bypass, senza servizio di scorta, come è stato per tutta la serata, salvo nuove problematiche. Nella mattinata riprenderanno anche i lavori di ripristino dei tratti più erosi dall'incendio della strada di accesso alla valle. Il mondo del lavoro, con la crisi Varzi, la Trieste, CGIL e CISL e UIL hanno presentato un esposto in tribunale contro il gruppo finlandese per comportamento antisindacale. Non demordono i sindacati, sanno che la lotta sarà durissima, ma la posta in gioco è alta. Il caso Wärtsilä non può e non deve diventare la pietra tombale sul comparto industriale triestino, passato in pochi anni dal 46 all'8% contro la media nazionale del 21%. Proposte legate solo al turismo non sono sufficienti, è la rotta industriale che deve essere invertita appena lo spopolamento della città. Si parte dalla Wärtsilä dunque. L'ultimo atto è l'esposto dei sindacati in tribunale a Trieste, che hanno denunciato la multinazionale finlandese per attività antisindacale relativamente a comportamenti avuti nel 2021 e nel 2022, incontri periodici o urgenti con i sindacati disattesi o sistematicamente rinviati, rassicurazioni sul prosieguo della produzione nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra avvenute l'8 marzo, smentite pochi mesi dopo dalla clamorosa inattesa retromarcia del gruppo il 14 luglio, con la decisione di accentrare la produzione in Finlandia, licenziando circa 450 persone a Trieste. Questi gli elementi chiave del ricorso depositato 2 giorni fa. Obiettivo del sindacato, come annunciato in una conferenza stampa da FIOM CGL, FIM CISL e UIL WILM, ottenere dal giudice, che dovrà convocare le parti e che si pronuncerà tra 2 settimane, un intervento sulle modalità di comportamento dell'azienda e dunque di bloccare la procedura di licenziamento, riaprendo un tavolo di trattative. Intanto, mentre rimane il presidio davanti ai cancelli della fabbrica e i motori attesi dalla Daewoo sono ancora fermi nel canale navigabile in attesa di essere imbarcati per il trasporto nel sud-est asiatico, tra pochi giorni le sigle di categorie incontreranno la Confederazione regionale di CGL, CISL e UIL con l'intento di coinvolgere tutta la città. Una manifestazione dovrebbe essere organizzata per i primi giorni di settembre. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'episodio di razzismo al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro ha presentato una querela scritta al locale comando dei carabinieri. Il medico di origine camerunense Andy Nganso, di 35 anni, in Italia da quando ne aveva 19, che lavora per la Croce Rossa e opera per la stagione estiva al pronto soccorso della città balneare friulana. Lo ha incontrato Andrea Rossini della nostra redazione di Venezia. Sentiamo. Mi trovavo nel punto di primo intervento di Lignano e intorno alle 4 di notte un paziente sulla 60 che dovevo soccorrere perché appena portato dentro dai miei colleghi in ambulanza per delle escoriazioni ha rifiutato di farsi curare e mi ha riempito di ingiurie, di insulti e di violenza razzista. Il dottor Andy Nganso, nato in Camerun e laureatosi in Italia, anni di lavoro con la Croce Rossa, ripercorre l'aggressione verbale, violenta, prolungata, subita al pronto soccorso di Lignano di notte mentre stava facendo il suo lavoro, curare le persone. Non è la prima volta che accade, purtroppo, fa parte della quotidianità di chi è nero in questo paese. Io uso reagire sempre con tanta pacatezza e devo dire sono stato ben accompagnato da questo abbraccio silenzioso di tutti i colleghi che hanno capito il mio modo di agire. In Italia il razzismo purtroppo è nell'aria, denuncia il dottor Nganso. Tutti noi afrodiscendenti abbiamo paura di diventare il prossimo Alica, l'uomo ucciso a Civitanova Marche, e in periodo elettorale le aggressioni aumentano. La mia esperienza è questa, ma non per questo ho intenzione di lasciare questo paese. L'Italia l'ho scelto come paese. È casa, non ho quindi l'intenzione di vederlo in un altro modo ed è proprio perché è casa che decido di impegnarmi in questo modo, perché la casa va cambiata. È ora che tutti i cittadini ne prendano veramente atto. E intanto si cerca personale di pronto soccorso in tutta Italia, reparti di emergenza e urgenza sguarniti. In alcune regioni hanno deciso di pagare liberi professionisti a gettone per coprire i turni. In Friuli Venezia Giulia si è deciso di incentivare gli specialisti che già lavorano pagando molto meglio i turni extra. È la pressione costante che chi lavora nell'ambito del pronto soccorso ha nelle 24 ore. Non esiste pausa, non esiste sabato, non esiste domenica, quindi i ragazzi, anche giovani, se possono, cercano strade alternative. Non lo vuole fare più nessuno questo lavoro, dice Franco Cominotto, direttore del pronto soccorso di Trieste, di fronte alla fuga continua di medici. Nei prossimi mesi altri 6 professionisti lasceranno il posto a fronte di un organico già in sofferenza. Non va meglio tra gli infermieri. In questo reparto all'appello ne mancano una decina. Valentina Zoratto, responsabile infermieristico. Succede sempre più spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, perché il personale è stanco, non ce la fa più, ha dato tantissimo, sta dando ancora tanto, però sto vedendo che molti stanno cominciando a cedere. Pesante il lavoro purtroppo anche per l'aggressività dei pazienti. Un'aggressività sia verbale che fisica nei confronti degli operatori del pronto soccorso. Per arginare la fuga di sanitari la regione su sollecito dei primari ha approvato una legge che rischiava di essere incostituzionale poiché supera il contratto collettivo e permette il pagamento di 100 euro l'ora per le ore di straordinario dei medici, 50 per gli infermieri. Un atto dovuto, dice chi resiste. Neva Lupins, medico. La risposta è il tipo di lavoro che abbiamo noi in pronto soccorso e in tutti i servizi d'urgenza, a partire poi dai turni notturni, eccetera, è imparagonabile a quello degli altri reparti. Gli accessi al pronto soccorso di Trieste sono tornati ai livelli pre-pandemia, 6.400 al mese, purtroppo spesso sono impropri. Tantissime persone non hanno segnato il medico di base e quindi anche per patologie non gravi, non urgenti, fanno ricorso al pronto soccorso. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Contagi da coronavirus in aumento, ieri registrati 768 nuovi casi contro i 619 di venerdì scorso. Anche l'incidenza cresce a 378 casi per 100.000 abitanti in una settimana. I tamponi analizzati ieri sono 4.375 per un tasso di positività del 17,5%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 5, una in meno in 24 ore, e scende a 200 il numero di pazienti positivi negli altri reparti, con un calo di 9 unità. Ieri registrati 3 decessi, uno a Trieste, uno a Udine, uno a Pordenone. La cronaca: perdono il controllo dell'auto e finiscono in un burrone cadendo per 10 metri. Due feriti la scorsa notte a Forniavoltri sulla strada che porta a Collina. L'allarme è scattato poco dopo le 22.30. I sanitari giunti sul posto hanno trovato i due occupanti della vettura contusi ma vigili. Con l'aiuto dei vigili del fuoco e dei carabinieri, i due sono stati estratti dall'automobile e poi trasportati, uno il più grave con l'elicottero all'ospedale di Udine, l'altro con un'autoambulanza al pronto soccorso di Tolmezzo, in codice verde. Ed è di 5 feriti, tra cui un 14enne, il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 52 bis a Cedarchis, nel comune di Arta Terme. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno prestato le prime cure ai feriti in attesa di ambulanza ed elisoccorso. Due dei 5 feriti sono stati elitrasportati all'ospedale di Udine, gli altri 3 sono stati portati a quello di Tolmezzo. Va a fuoco la lavastoviglie e l'incendio rischia di propagarsi a tutta l'abitazione. È successo a Lignano, in un appartamento al piano terra di via Raggio di Venere. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, le 6 persone che si trovavano nell'abitazione erano subito uscite, ma avevano respirato del fumo e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Controlli straordinari in Borgo Stazione a Udine, 264 persone identificate, 2 denunciate all'autorità giudiziaria. È il bilancio di un'operazione congiunta delle forze dell'ordine. Denunciati un cittadino marocchino per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine e un minore italiano per furto di una bicicletta da un garage, restituita poi al proprietario che aveva dato l'allarme. 2 ragazzi trovati in possesso di una modica quantità di hashish verranno invece segnalati come assuntori, sanzionato per ubriachezza, infine un cittadino austriaco. L'hanno chiamata la beffa del fotovoltaico. Il decreto sostegni prevede che chi ha prodotto più di quanto previsto ora dovrà restituire i soldi allo Stato. La rabbia di agricoltori e allevatori. Le brutte notizie per Paolo Rodaro, imprenditore agricolo, sono arrivate via PEC il mese scorso. Il gestore servizi energetici gli comunica che 4 dei suoi 8 impianti fotovoltaici rientrano nel perimetro del decreto Sostegni Ter. Lo Stato ha stabilito che se un'azienda con determinati impianti alimentati a rinnovabili ha venduto energia all'attuale prezzo di mercato, 10 volte superiore rispetto a quello medio degli ultimi 10 anni, allora dovrà ridare i soldi indietro. Tradotto, da ottobre dovrà restituire oltre 100.000 euro. Ma siccome 100.000 euro... sono già stati spesi per compensare le minore vendite e il problema delle siccità che abbiamo avuto quest'anno, non devo fare altro che chiedere in banca se mi danno un ulteriore mutuo di 100.000 euro per restituire i soldi che lo Stato mi ha dato. Quando noi abbiamo fatto questo impianto nel 2010, ce l'hanno fatto con il concetto della compensazione di reddito agricolo. Perché adesso lo vuoi tirar via e considerarci questo come reddito d'impresa e il resto come reddito agricolo? La stessa PEC è arrivata lo stesso giorno ad un'azienda cerealicola di Manzano, in un mese nero in cui è stato quasi del tutto perso il raccolto di orzo e frumento. Filiberto Martinengo, imprenditore agricolo Confagricoltura. Nei prossimi mesi i nostri timori è che questa legge che hanno fatto non venga tolta. Un'annata difficile alle spalle, ci ritroviamo anche che dobbiamo ancora finire di pagare un impianto che quella volta costavano molti molti soldi. La stessa PEC è arrivata anche a chi ha investito sull'idroelettrico prima del 2010 come scelta strategica. Industrie come la Fantoni dovranno restituire i 3/4 delle entrate derivanti dalla vendita in rete di questa energia. Costi in più che si aggiungono alla tassa straordinaria sugli extra profitti che colpisce tutti i produttori per finanziare gli aiuti alle famiglie. Cividale, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le difficoltà e i bisogni dell'agricoltura di montagna, se ne parla oggi in un evento dedicato ad Ampezzo, alle 18 in Piazza Carnia Libera, nell'ambito della rassegna Vicino Lontano Mont. Prima alle 15.30 al rifugio Gilberti l'incontro Scalare con l'acqua con l'alpinista e pittrice Riccarda De Ecker. Dopo le attività di bonifica ambientale nelle aree Caffaro e nella zona industriale Aussacorno, il consorzio di bonifica Pianura Friulana si occuperà anche dei dragaggi delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare. Inoltre, per il porto di Monfalcone, collaborerà con il Consorzio per lo Sviluppo Economico Venezia Giulia nelle opere di escavazione del canale d'accesso. Gli interventi saranno resi possibili grazie alla convenzione sottoscritta con la Regione. Lo sport. Agli europei di nuoto di Roma è arrivata la prima medaglia azzurra nelle gare di tuffi dalle grandi altezze ed è una medaglia di bronzo conquistata dalla 21enne Elisa Cosetti della Triestina Nuoto. Per lei un primo tuffo dai 20 metri praticamente perfetto che l'aveva proiettata al primo posto provvisorio in classifica. Nella seconda rotazione un errore nell'ultima fase con un'entrata in acqua non perfetta l'ha portata a 284,30 punti in totale. Alle spalle della tedesca Iris Schmidbauer, prima con 309,30, e dell'ucraina Antonina Vishivanova con 295,40. Nella gara maschile l'altro atleta della Triestina Nuoto, il 18enne Andrea Barnaba, ha terminato al nono posto il secondo giro di tuffi. Gli ultimi due tuffi con l'assegnazione delle medaglie sono in programma oggi a partire dalle 18. Sentiamo un'emozionatissima Elisa Cosetti subito dopo la gara al microfono di Marco Tripisciano di Rai Sport. Fino all'ultimo tuffo eri potenzialmente oro, poi forse l'emozione? Sì, sicuramente l'emozione, mi tremavano le gambe, però sono contenta di aver sbagliato dando il massimo. Se però la partenza, la prima gara è un bronzo, il futuro è nostro. Esatto, speriamo. Una dedica particolare, non so, a De Rose, a chi ti ha assistito in questo passaggio? Sicuramente a Sandro, a Nicole, che è la mia allenatrice, mi ha sostenuto fin da subito, come tutto il resto della squadra ovviamente, e alla federazione che ha messo in piedi questo progetto per farci arrivare poi fino a questo punto, alla mia famiglia e a tutte le persone che conosco. E ora vacanze? Sì. In bocca al lupo e complimenti sempre. Il calcio, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottile è pronto alla sua prima partita in Serie A in casa. Allo Stadio Friuli alle 18.30 sarà il teatro di Udinese Salernitana, alla quale i bianconeri arrivano dopo una buona settimana di lavoro concentrato su carico fisico e intensità per potenziare la condizione generale della rosa. Ci avviciniamo all'esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione, ha detto Sottile, con la voglia di fare una grande prestazione. La Salernitana gioca un calcio molto pratico, secondo l'allenatore bianconero, che ha confermato il 3-5-2 come modulo di partenza. L'infermeria si sta svuotando. Arslan sta bene ma deve riprendere il ritmo partita. Progressi anche per Beto. Sottile oggi pomeriggio dovrebbe affidarsi a Silvestri tra i pali, in difesa Becao, Perez e Masina. A centrocampo e Boseleu, oggi esterni. In mezzo Pereira, Wallace e Makengo. In attacco la coppia Deulofeu, Success. Intanto l'Udinese ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Brandon Soppi all'Atalanta. Il Pordenone ha invece depositato il contratto con il quale ha acquisito per i prossimi 4 anni le prestazioni dell'attaccante Edgaras Dubičkas. Il calciatore lituano classe 98 arriva dal Piacenza. Ed ora parliamo di un torneo di calcio femminile per dire no alla violenza contro le donne. Si terrà alla fine di agosto a Valvasone Arzene. Il fenomeno della violenza contro le donne continua ad essere una piaga per la nostra società e lo confermano tristemente i dati contenuti nel dossier presentato alcuni giorni fa dal Ministero degli Interni. Numeri che confermano come nella nostra regione si annoverino situazioni che trovano nelle realtà drammatiche conferme negli ultimi omicidi di donne e spesso di suicidi dell'uomo che l'ha perpetrato. Di fronte a questa vera e propria mattanza domestica e per sensibilizzare l'opinione pubblica si è deciso di allestire il primo torneo di calcio femminile Under 19 Diamo un calcio alla violenza, che si terrà il 27 di agosto sui campi dello stadio Castellani a Valvasone Arzene, grazie all'organizzazione di Save Art. Si confronteranno le squadre del Pordenone, Tavagnacco, Cittadella Women e Hellas Verona. la presidente di Sevart del Friuli Venezia Giulia, Ketty Faion. Dopo la pandemia e il lockdown addirittura i femminicidi sono aumentati dell'8%, quindi noi attraverso lo sport e il sociale vogliamo creare coscienza. Un'iniziativa patrocinata da diversi comuni del Friuli e del Pordenonese e dalla Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio regionale. La presidente Dusi Marcolin. L'assonanza e la vicinanza delle ragazze che hanno subito con entusiasmo aderito all'iniziativa è sicuramente un segnale importante. Continueremo in questo campo perché sia gli uomini che le donne devono assolutamente insieme combattere questo fenomeno. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.47 apriamo la nostra rassegna stampa, alberghi e caro bollette, la stagione finisce prima, è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Da Lignano alla montagna, operatori costretti a fare i conti con i costi altissimi dell'elettricità. Nella fotonotizia il bypass di Resia, di nuovo a rischio isolamento, preoccupa il torrente. Nella colonna destra, da Udine, aria condizionata e porte aperte, nei negozi stretta contro gli sprechi. Spaccata e furto in un bar pasticceria in Viale Venezia, rubati soldi e vivande. In prima pagina anche la politica con un'intervista a Renzo Tondo, Berlusconi mi tradì 3 volte. Sul fondo a Lignano estate in giallo nel ricordo di Scerbanenko. Il peso delle bollette piega agli alberghi e l'apertura del Gazzettino del Friuli. In prima pagina anche la storia del medico vittima di insulti razzisti, paziente denunciato. Nella cronaca furti, 2 colpi in poche ore tra Udine e Sedigliano, svuotata una cassaforte. Poi il maltempo, adesso si contano i danni in agricoltura e infine lo sport, le parole di Sottil con la Salernitana sarà battaglia. Il Piccolo di Trieste apre la prima pagina con la crisi Varzi, la condotta antisindacale è il titolo, esposto contro Varzi, i sindacati trascinano in tribunale i finlandesi per interrompere l'iter dei licenziamenti. Poi una fotonotizia annuncia una novità in arrivo in centro città, in via Dante, il caffè Zacher con licenza viennese. Sarà la terza città con Vienna e Tokyo a poter esibire la storica insegna. In prima pagina sul Piccolo i riferimenti alla cronaca cittadina con il giardino pubblico e l'orto lapidario escluso dai fondi del PNRR e le difficoltà della motonave adriatica che collega Trieste a Grado, che rimarrà ferma fino a domani. E in prima pagina anche l'impresa sportiva della tuffatrice triestina Elisa Cosetti, che ha vinto agli Europei di Roma lo storico bronzo nei tuffi dalle grandi altezze. Ad aprire le cronache da Trieste, le scuole che si preparano alla ripartenza. Ecco le date: dagli asili alle superiori, nidi comunali e convenzionati, spazi gioco e sezioni primavera, via il 1° settembre. Per le altre strutture, scrive il Piccolo, il calendario regionale indica il 12, ma in molti casi si anticipa. Il Gazzettino di Pordenone apre con il peso delle bollette che piega agli alberghi. In prima pagina anche la sanità, medico sotto indagine per i contagi in reparto. Il PM nessun reato. Il caso nel 2020 in anatomia patologica, dipendente si oppone all'archiviazione. Nella fotonotizia ai funerali di Marco Darei, il 18enne morto con altri 3 amici in un incidente stradale, l'addio a Marco tra lacrime e ricordi. Nella colonna destra un caso, quello degli anziani parcheggiati nelle RSA Covid, anche se negativi. A San Vito la siccità uccide i pesci nella Roggia Roia e poi a Pordenone, piazza Risorgimento, soffocata dagli affitti. Sono troppo cari, se ne andranno tutti. Vediamo il Messaggero Veneto di Pordenone, l'uso delle ferie, Electrolux perde in Cassazione, il titolo di apertura, i riposi non vanno usati come cassa integrazione. 100 lavoratori avevano portato in giudizio l'azienda. Nella sezione di cronaca da Pordenone a Dubai, esperti a lavoro sul caso cripto. Valute e poi la scuola. Ecco tutti gli istituti che resteranno senza dirigente. Il Lavoro apre la prima pagina dell'edizione isontina del Piccolo, titolo d'apertura dedicato al comune di Monfalcone che assume 40 lavoratori in più. La pianta organica verrà ampliata entro fine anno. In arrivo i bandi per gli ultimi 12 amministrativi, tema che apre anche il capocronaca di Monfalcone. Piccolo che in prima pagina con una foto ricorda poi l'impennata della cassa integrazione a luglio in regione. Anche sull'edizione isontina del Piccolo il caso di Adriatica, la motonave che collega Trieste a Grado, ancora ancora out, la regione studia possibili sanzioni. E poi il turismo nell'area collinare. Tra i turisti in Coglio spopolano le e-bike, registrato un record di noleggi. Dedicata al commercio, l'apertura delle cronache di Gorizia, attività in ripresa all'ingresso sud, si legge. Quattro nuovi negozi sfidano la crisi, segni di vita, dalle cucine componibili al ristorante, passando per il poliambulatorio e l'ex profumeria. Alle 7.51 qualche appuntamento, rievocazioni storiche al Castello di San Giusto di Trieste. Oggi la compagnia d'arme Malleus sarà presente con quattro postazioni fisse dalle 10 alle 18.30. A Udine, al Museo Etnografico del Friuli, Walter Colle dialogherà con il cantautore Lino Straulino sulle tradizioni canore friulane alle 17. Approda a Grado ai Giardini Marchesan la nuova edizione dell'aperitivo con l'arte dell'Associazione Culturale a Delinquere, con uno spettacolo dedicato al pittore austriaco Gustav Klimt alle 21.30. Il concerto del quartetto Reveria aprirà la 32esima edizione delle serate musicali a Villa Codelli di Mossa alle 21. L'Alpe Adria Puppet Festival partirà da Muggia con un fine settimana di spettacoli di teatro di figura che si terranno nel centro storico tra le 17.30 e le 21.15. Continuano gli appuntamenti dell'estate a Pordenone con visite guidate durante il giorno e concerti serali in tutta la città. Programma disponibile sul sito del Comune. Escursione notturna nella riserva naturale della Val Rosandra. Ritrovo alle 20.30 alla chiesetta di San Lorenzo per un percorso della durata di circa 2 ore e mezza. Lo sport partirà alle 14.20 da Vigo Novo, la gara juniores di ciclismo Casut Cimolais. Arrivo previsto verso le 17 dopo 124,2 chilometri. Verranno attraversati anche i comuni di Budoia, Montereale, Maniago, Fanna e Clout. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con la sesta puntata di Parapapunzi, rivista radiofonica in dialetto realizzata nel 1992 con la conduzione di Ruggero Winter e Nereo Zepper. A mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon, un programma di e con Riccardo Cicconetti e Marco Fornasin, 30 minuti di umorismo in cui succede di tutto e tutto può succedere. Per quanto riguarda i nostri giornali radio, oggi pomeriggio, per non interrompere la radiocronaca integrale su Radio 1 di Udinese Salernitana, l'ultima edizione del giornale radio regionale andrà in onda 5 minuti dopo le 18 anziché alle 18.30. Ma adesso sono le 7.54 e si chiude la prima edizione del giornale radio regionale del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Maurizio Mona ed Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale alle 12.30. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.